Focus Economia. Le 17:09:25. Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti da Simone Spezia a questa nuova puntata di Focus Economia. Vi diciamo subito che finalmente oggi i mercati sembrano tirare un sospiro di sollievo. Milano guadagna il 2,02% in questo momento sul FTSE MIB, il FTSE Share l'1,93%, e va bene anche tutto il resto d'Europa, con l'America che si attesta su rialzi marginali, il Dow Jones guadagna lo 0,20%, lo Standard & Poor's lo 0,38%. Più avanti, come sempre, faremo il quadro di quello che è successo in borsa una volta i mercati saranno chiusi. Parleremo naturalmente della missione italiana dell'ICE, delle imprese italiane, delle banche in Cina, con il nostro inviato Sebastiano Barisoni. Una parte della trasmissione in questi giorni lo avete sentito, va in onda proprio da Shanghai. Ascolteremo anche un'intervista con l'amministratore delegato di Intesa San Paolo, Corrado Passera. Parleremo di pensioni sulla scorta del nuovo richiamo dell'Unione Europea sull'età pensionabile delle donne nel pubblico impiego, e poi faremo un punto di mercato. Ieri abbiamo parlato più strettamente di borse, oggi toccheremo invece un tema che sta anche animando il dibattito sui giornali esteri, ossia questo aumento del premio di rischio, diciamo, chiamiamolo così, sul fallimento dell'Italia, su un eventuale fallimento dell'Italia, ossia i credit default swaps sono di nuovo aumentati. Ieri hanno toccato un massimo storico a 250 punti base. Nel frattempo lo spread tra i BTP italiani e i Bund tedeschi, che sono il riferimento europeo, continua ad ampliarsi. Insomma, il Wall Street Journal oggi sospetta che ci sia nuovamente l'Italia nel mirino. Parleremo anche di questo argomento. Le notizie in breve di questa giornata. Allora, c'è stata un'apertura in lieve rialzo per il petrolio a New York, più 0,4% a $73.12 al barile. Parliamo dei futures con scadenza a luglio. L'attesa era per le scorte settimanali americane, che sono state diffuse proprio un attimo fa, meno 1,9 milioni di barili nella settimana terminata il 28 maggio. In questo momento sempre il WTI con scadenza a luglio viene scambiato a $73.08, quindi c'è stato un lievissimo calo rispetto all'apertura. E a proposito di petrolio e di compagnie petrolifere, ne abbiamo parlato molto ieri di BP, di British Petroleum, coinvolta, come sapete, nella vicenda della piattaforma nel Golfo del Messico. Dopo Fitch, anche Moody's ha annunciato il taglio del rating su BP. L'agenzia ha declassato la compagnia petrolifera dal livello AA1 ad AA2 e non esclude un ulteriore ribasso del rating, quindi ulteriori preoccupazioni. Nel frattempo, domani nel Golfo del Messico è atteso il presidente americano Barack Obama. Buone notizie invece dal settore dei trasporti aerei, che a quanto pare sta cominciando ad uscire dalla crisi, anche se ci vorranno 2 anni per poter parlare di ripresa. Il presidente della IATA, Giovanni Bisignani, che è la IATA, l'associazione che raccoglie le compagnie aeree, durante una conferenza stampa a Berlino ha detto che il settore registrerà una crescita del 7% dei passeggeri e del 18% delle attività cargo. Questo nel 2010. Aumenti legati però alla forte ripresa dell'economia dell'area Asia-Pacifico, ha spiegato Bisignani, quindi non ottime notizie per il vecchio continente e per l'America. E veniamo proprio all'America, dove sono stati diffusi i dati sui sussidi di disoccupazione. Sono scesi di 10.000 unità a 453.000, le previsioni erano per un ribasso a 455.000, quindi il dato è lievemente migliore delle attese. Poi ci sono i dati interessanti sul debito pubblico, perché tanto se ne parla per i paesi europei, ma nemmeno gli americani in questo periodo sono messi particolarmente bene. Il debito pubblico americano supera per la prima volta volta la soglia ai 13.000 miliardi di dollari. E questo emerge dal sito internet del Tesoro. Questo vale circa l'88% del PIL. Altri dati diffusi dall'America e arrivati proprio poco fa: gli ordini all'industria in aprile, un più 1,2%, sono al di sotto delle attese degli analisti, che si attendevano un incremento dell'1,7%. Come abbiamo visto, l'impatto sulla borsa non è particolarmente forte. Insomma, il Dow Jones continua a rimanere appena sopra la parità. Si diceva del Wall Street Journal, sostiene in un'analisi che l'Italia potrebbe essere il prossimo bersaglio della speculazione del mercato, anche se le sue condizioni economiche e finanziarie sono migliori rispetto a Spagna e Portogallo. Prende le mosse l'articolo, come dicevamo, dalle tensioni sul mercato dei BTP e dall'aumento della percezione del rischio debito, evidenziato dal rialzo record dei cosiddetti credit default swaps. E sempre in merito all'Europa, c'è la Banca Centrale Europea che segnala un nuovo record, un record dei depositi delle banche, oltre 320 miliardi, che è un dato interessante, perché in sostanza le banche preferiscono tenere la liquidità in eccesso presso la BCE anziché utilizzarla per i prestiti ad altri istituti. Un livello di questo genere da segnalare che non si vedeva da subito dopo il crack di Lehman Brothers. Accennavamo all'ultimatum della Commissione Europea all'Italia. Viene chiamato ultimatum dalle agenzie di stampa, anche se non è il primo ultimatum che arriva dall'Unione Europea su questo. Se non equiparerà immediatamente l'età pensionabile tra uomini e donne nel settore pubblico, sarà nuovamente deferita alla Corte di Giustizia Europea. Che cosa chiede Bruxelles? Chiede di alzare l'età pensionabile delle dipendenti pubbliche, portandola a 65 anni, lo stesso livello previsto per i colleghi maschi. Per rispettare pienamente la sentenza della Corte di giustizia europea, l'Italia deve abrogare il periodo di transizione attualmente previsto in 8 anni. Tra l'altro, il ministro del lavoro Maurizio Sacconi, sentiremo la sua voce più avanti, incontrerà lunedì a Lussemburgo la commissaria Viviane Reding per trattare proprio sulla richiesta europea. Ne parla anche il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta, dice: abbiamo il veicolo della manovra e vedremo come rispondere all'Europa e alla Corte di giustizia europea. Sempre sul fronte dell'economia italiana, segno positivo per i consumi nel 2010, più 0,6, e la crescita della spesa delle famiglie secondo l'ufficio studi della Confcommercio, che rivede invece al ribasso da 0,8 a 0,7 il prodotto interno lordo per l'anno in corso. Tuttavia anticipa l'ufficio studi, aprile segnerà ancora un dato negativo per i consumi. Il commento del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, intervistato da Alessandra Schepisi. Il nostro osservatorio ha indicato che ci sono dei segnali di ripresa, però sono ancora dei segnali fragili e sono segnali discontinui. Dall'osservatorio risulta che il settore del commercio, il settore del turismo sono ancora in crisi, e risulta anche che questa minaccia di una crisi finanziaria globale certamente non aiuta il clima di fiducia delle famiglie e delle imprese. E sempre dall'osservatorio, le previsioni che noi diamo per il 2010 è di un aumento del PIL intorno allo 0,7% e per i consumi lo 0,6%. Allora, per accelerare e per irrobustire questi segnali di crescita, la strada è chiara: rigore nella gestione dei conti pubblici. Bene quindi la manovra che tenta di ridurre la spesa pubblica e di contrastare l'evasione e l'elusione, perché secondo noi queste due misure devono costituire il presupposto fondamentale, strutturale, i due presupposti strutturali per arrivare quanto prima alla riforma fiscale. Infine, una notizia appena battuta dalle agenzie, da Radio Core Il Sole 24 Ore: il gruppo editoriale L'Espresso sta valutando la possibilità di avanzare un'offerta per entrare nel capitale della società editrice del quotidiano francese Le Monde. Lo dice un portavoce dell'Espresso a Radio Core. Le Monde si trova nelle condizioni di effettuare un aumento di capitale anche fino a 100 milioni di euro per ripianare le perdite. E veniamo al primo tema di questa giornata. E ci torniamo ad occupare di Cina. Sta volgendo al termine la terza missione imprenditoriale italiana nel paese, organizzata da ICE, Confindustria e ABI, presenti aziende, imprenditori, gruppi bancari. Per il governo, il ministro del welfare Maurizio Sacconi. Colleghiamoci allora per l'ultima volta dalla Cina con Sebastiano Barisoni per la chiusura della missione. Buonasera Sebastiano, a te la linea. Sì, ciao Simone, ultimo collegamento di Focus Economia dalla Cina. Parte della missione si è trasferita a Pechino, tra cui appunto il ministro Sacconi. E anche oggi noi abbiamo incontrato diversi esponenti del mondo bancario e imprenditoriale qui a Shanghai. La cosa più interessante che emerge, parlando anche con gli imprenditori, dopo la visita che abbiamo fatto al padiglione italiano dell'Expo e all'Expo complessivamente, devo dire che la fila davanti al padiglione italiano dell'Expo era impressionante, la fila soprattutto in stragrande maggioranza di cinesi, buon segnale di quanto e di come viene accolto il nostro paese. Ma dicevo, ci siamo concentrati anche su casi più specifici. C'è una missione per esempio di industriali marchigiani e della regione Marche che sta accompagnando la missione ufficiale. Tra l'altro emergeva, proprio analizzando i dati sull'export italiano qui in Cina, che ci sono dei distretti industriali, il conciario dell'area vicentina, ma non solo, e il settore del mobile arredo con le cucine e tutto quello che è l'arredamento, che già esportano tantissimo in Cina. Pensate che il 30% delle camere da letto cinesi di importazione sono prodotte in Italia, sono made in Italy, un terzo, ed è un buon risultato. Dati analoghi si hanno sempre per quello che riguarda le importazioni di prodotti in pelle, di prodotti del lusso del settore legno arredo. Ecco perché ne parliamo con il presidente degli industriali delle Marche, Giuseppe Casali. Marche, area importantissima per quello che riguarda il settore cucina, legno arredo e anche appunto tutto quello che ha a che fare con la casa. 100 milioni di cinesi di classe media in Cina già presente, con una prospettiva di arrivare a 250 milioni nei prossimi 5 anni. Sono cifre, presidente Casali, che la dicono lunga sulle opportunità che questo paese rappresenta per il Made in Italy. Ma sicuramente questo settore del legno e dell'arredo è un settore che punta molto sulla Cina. A me risulta che già alcune aziende nel settore, per esempio delle cucine, anche stiano puntando sul mercato di gamma medio-alta, perché comunque nel settore, come dice lei giustamente, nel settore del matrimonio nella Cina si sta investendo, e quindi probabilmente nei prossimi anni vedremo scendere in questo territorio cucinieri e mobilieri con gamma però di prodotto molto alta, perché vogliono aggredire quel mercato, non quel mercato che nel passato invece avevano aggredito con la cucina componibile. Ecco, noi negli anni passati proprio da Shanghai abbiamo raccontato storie per esempio di imprese marchigiane produttrici di cappe, il distretto, diciamo, se non ricordo male, di Fabriano, della cappa, che proprio grazie non a una delocalizzazione ma a un investimento produttivo, quindi internazionalizzazione in Cina, erano riusciti a riequilibrare alcune perdite e quindi mantenere anche l'occupazione in Italia, alcune perdite di fatturato che si verificavano in Italia. Lei ritiene che a questo punto la Cina debba essere uno sbocco o anche un insediamento produttivo verso l'Italia? Allora, deve essere sicuramente un insediamento produttivo anche verso l'Italia, non solo per il mercato interno. Il settore che lei ha citato, quello delle cappe, è un settore un po' complesso, perché tutto sommato non c'è tantissima tecnologia su una cappa, quindi il rischio di portare del know-how in Cina per poi esportare un prodotto di gamma alta è difficile. Io credo che in quel settore specifico punteranno solo al mercato interno cinese, perché se tutti i cinesi nei prossimi 20 anni dovessero comprare delle cappe per le loro cucine, evidentemente potrebbero mettere in crisi anche la capacità produttiva di stabilimenti cinesi di quantità. Diverso è invece il discorso del design. Io credo che in questo momento noi dovremmo, come Marche e come Italia, puntare al design, quindi su un prodotto come potrebbe essere la cappa d'arredamento ci potrebbe essere un buon business anche in questo caso. E allora, lei che rappresenta gli industriali marchigiani, visto che è il presidente di Ancona, il ruolo quale deve essere? Di consulenza in loco o di aiuto poi attraverso le missioni di cui appunto anche lei fa parte? Senta, io intanto da medio piccolo imprenditore dico che la Cina è comunque un mercato complesso, per cui bisogna essere strutturati per arrivare in Cina. Quindi sarebbe auspicabile che le grandi aziende italiane, le grandi aziende marchigiane, le grandi aziende della provincia d'Ancona di cui io sono presidente, dovrebbero avere queste grandi aziende l'attenzione di tirarsi in dote le imprese locali che hanno fatto la differenza e le fortune delle grandi aziende. Perché se non porteranno a casa questo vantaggio competitivo, rischiamo che i piccoli rimangano nelle Marche e i grandi da soli rimangano in Cina. Ecco, ma su questo, per esempio, insomma, lei, visto che citava il suo essere anche imprenditore, ci investirebbe in Cina? Ma guardi, io sono stato sempre abbastanza scettico, visto da distante. È il mio primo viaggio in Cina, perché ero stato in Corea, ero stato in Giappone, e capisco come mai, per esempio, una nostra realtà del nostro gruppo, la Rainbow, di cui io sono socio fondatore, ha già da anni iniziato a lavorare in quest'area, perché comunque c'è una capacità di produrre altissima e c'è anche una dedizione. Io ho avuto l'impressione che i cinesi abbiano voglia di lavorare. Questa mattina notavo con quanto entusiasmo delle persone che stavano a fare lavori umilissimi lo facessero con la voglia di lavorare. Forse qualche volta in Italia i lavori più umili non vengono fatti con lo stesso entusiasmo. Grazie, grazie Presidente di Confindustria Ancona Casali. Grazie a voi. E dall'export italiano, dai distretti industriali italiani, passiamo alla finanza. Chiaramente in questo caso non ci siamo occupati dell'appoggio alle imprese italiane delle banche, già ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Oggi in borsa mi sembra di aver capito che la giornata va sicuramente meglio rispetto agli ultimi giorni, ma resta sullo sfondo il tema delle regole per i mercati finanziari, dell'ondata anche speculativa che si è verificata nei giorni scorsi, di regole condivise a livello europeo e possibilmente, anzi quasi obbligatoriamente, a livello internazionale, quindi almeno transatlantico. Ne abbiamo parlato con il numero uno di Banca Intesa San Paolo, Corrado Passera. Dottor Passera, dall'ultima volta che ci siamo visti, se non ricordo male, il Festival dell'Economia, anzi il Forum dell'Economia a Taormina, devo dire che sembra passato pochissimo tempo a giudicare l'andamento dei mercati, ancora molto instabili, ancora molto volatili, molta discussione e ragionamento a livello europeo sulle regole, regole però che non sembrano condivise non solo a livello europeo ma soprattutto a livello transatlantico. Perché si insiste, l'ha fatto anche il governatore della Banca Italia Mario Draghi nella sua ultima relazione, così tanto sulla necessità di regole condivise per o come elemento di stabilizzazione per i mercati finanziari? Ma tutti i mercati hanno bisogno di regole e sicuramente hanno bisogno di regole i mercati finanziari. Se guardiamo alla crisi, i paesi che avevano buone regole e buoni controlli sono passati attraverso la crisi bene, quelli che avevano cattive regole e non hanno avuto buoni controllori hanno avuto grandissimi problemi. Abbiamo bisogno di regole, abbiamo bisogno di regole certe, abbiamo bisogno di regole definite velocemente, perché adesso di tempo ne è passato parecchio e una delle ragioni, ovviamente non l'unica, ma una delle ragioni di questa grande volatilità sui mercati è la grande incertezza sulle regole. Se ne dicono di tutti i colori e quindi ogni incertezza crea volatilità. Quindi noi abbiamo bisogno di queste regole, le regole non le può fare il settore, non le può fare l'industria, devono farli i regolatori, devono farli la politica e questo è il momento per farle. In queste settimane però abbiamo assistito anche a livello, diciamo, di commenti sui giornali, sui mezzi di informazione, a due scuole di pensiero. C'è chi dice questa è un'ondata speculativa in cui si va sostanzialmente con vendite di short selling e quindi speculando sui cali di borsa a guadagnare, ad amplificare i cali e comunque le oscillazioni, e c'è tutta invece una scuola di pensiero che dice attenzione, le regole sono importanti per obbligare soprattutto gli istituti finanziari ad avere, diciamo, più massa critica prima di comprare le operazioni, ma queste vendite hanno e trovano una loro ragione d'essere nella debolezza dei conti pubblici dei governi europei. Secondo lei chi ha ragione? Chi pensa che vi sia una speculazione che si avvantaggia di un'assenza di un accordo europeo perlomeno, oppure chi dice che in sostanza queste tensioni rispecchiano per una debolezza strutturale dei conti pubblici? Ma guardi, la speculazione fa parte della vita normale dei mercati, la speculazione quando c'è, sicuramente una componente c'è anche in questo momento, segue però i macro trend che ci sono sottostanti. Oggi c'è preoccupazione, lo accennava lei, a un tema debiti pubblici, però credo che la ragione principale di incertezza sul futuro riguardi la crescita. c'è il timore che si possa non innescare in tempi brevi una fase di crescita sostenuta e sostenibile, e questo naturalmente dà un tono negativo a tutto. Aggiungi a questo i possibili rischi di questo paese o dell'altro paese, aggiungi a questo la mancanza di regole chiare e il timore che si possano prendere anche da un punto di vista normativo delle decisioni contro la crescita, la combinazione di tutti ne fa un cocktail che spinge tutto al ribasso. Short selling c'è sempre stato, credo che in certi momenti di grande speculazione si possa razionalmente scoraggiarlo o addirittura impedirlo, però solo se si fa tutti insieme i grandi paesi in maniera coordinata e comunicando gli interventi in maniera chiara, cosa che non è stata fatta in queste occasioni. Ecco, su questo fronte assistiamo in Germania, ma anche in Gran Bretagna, a una tendenza a chiedere alle banche o, tra virgolette, di accantonare più riserve per mettere il sistema a riparo da futuri squilibri finanziari, o addirittura di una tassazione che va in qualche modo si indirizza in qualche modo sul sistema bancario, come dire, voi dovete darci una mano a uscire da questa situazione dei conti pubblici, perché in qualche modo questi conti pubblici sono peggiorati per salvare il sistema bancario. Ecco, lei ritiene, è chiaro che insomma, chiedere a chi presiede una banca se sia giusto tassare le banche un po' come può risultare un conflitto di interessi, ma lei ritiene che ci sia una ratio in tutto questo perlomeno? Allora, tema importantissimo da affrontare senza nascondersi i problemi. Ci sono degli stati che si sono quasi rovinati per salvare le loro banche, che sono fallite e logicamente vogliono programmare di recuperare parte di questi soldi. E quindi nulla di strano che alcuni paesi stiano pensando a una tassazione, soprattutto quei paesi che hanno attualmente fiscalità bassissima per il mondo finanziario e che quindi hanno un grosso spazio per recuperare. Ci sono degli altri paesi che non hanno avuto necessità di salvare banche, di mettere soldi nel loro sistema bancario e quindi non vedono ragione di fare interventi di questo genere. Alcuni di questi paesi come il nostro, purtroppo lo dico dal nostro punto di vista, ma è un fatto di cui tutti conosciamo, hanno già livelli di fiscalità altissimi. Avere il 20 come certi paesi anglosassoni o 40 come l'Italia fa una grande differenza. Poi ultima osservazione molto importante, non parliamo mai di banche in generale, perché non esistono le banche in generale, esistono le banche dell'economia reale, cioè le banche commerciali, le banche che fanno depositi e crediti alla clientela, esistono le banche del trading, le banche che fanno soprattutto attività finanziaria, sono due attività, entrambe logiche, entrambe lecite, entrambe utili, però necessitano a mio parere di regole, di requisiti patrimoniali, di meccanismi di controllo molto molto diverse, anche se sono all'interno della stessa organizzazione. Ecco, su questo mi richiamo ancora una volta alle parole del governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi. Quello che sembra mancare però è anche un accordo, diciamo, nel mondo occidentale. Siamo in Cina, chiaramente il sistema bancario cinese, diciamo, ha delle caratteristiche diverse, il tier è una cosa un po' particolare qui, ma insomma l'impressione che si ha è che Barack Obama abbia più difficoltà a riformare Wall Street di quanto non abbia difficile sia stato invece fare la riforma sanitaria, forse voi anche per una debolezza di Timothy Geithner come segretario del Tesoro. Lei ritiene che in ogni caso senza una riforma anche americana ci troveremo di fronte a un'altra zoppa, se la riforma dovesse essere solo europea, per di più con molti scetticismi e probabili resistenze britanniche? Beh, se il G20 non riuscisse a dare al prossimo giro un livello di normativa uguale in tutto il mondo, o quantomeno negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone, beh, avrebbe veramente fallito. Questo rischio c'è. Non dimentichiamoci che mentre noi parliamo di Basilea 3, negli Stati Uniti non hanno ancora in parte adottato Basilea 2, per cui no, noi dobbiamo pretendere dalla nostra politica e dai nostri governanti a livello di G20 che le prossime regole siano semplici e le stesse in tutto il mondo. Un'ultima domanda che spesso ci fanno i nostri ascoltatori, ma perché se i timori di prodotti tossici, di carta su carta, si sintetizzano e concentrano su banche, appunto non retail, quando il mercato va male l'Italia perde di più e soprattutto le banche italiane, che oggettivamente non hanno mostrato tutte queste passività in questi ultimi 2 anni dovute a operazioni a rischio, perdono quasi più della media delle banche europee? Ma questa qui è una realtà che ogni tanto succede e che va capita. Come le dicevo, la negatività del mercato è soprattutto sulle prospettive di crescita, e c'è oggettivamente un'aspettativa molto bassa di crescita nel nostro paese, cosa che secondo me non è assolutamente detto che sia, ma questo si porta dietro per le grandi banche, soprattutto che rappresentano l'economia italiana, questo peso in più. Non dimentichiamoci che poi molte banche che sono fallite o che hanno avuto grandi problemi hanno anche avuto grandi iniezioni di capitale, e questo le ha, diciamo, rafforzate nell'immediato. Noi siamo contenti e orgogliosi di non aver dovuto chiedere soldi né al privato né al pubblico, di essere passati attraverso la crisi, di avere tutte le risorse e la liquidità per stare vicino ai nostri clienti, e siamo convinti che il potenziale di crescita dell'Italia sia molto superiore a quello che oggi viene scontato dai mercati. Simone, qui da Shanghai è veramente tutto, la missione termina per quello che ci riguarda qui, ti lascio al resto delle notizie di Focus Economia. Grazie dunque al nostro Sebastiano Barisoni da Shanghai, e a chi ci chiede al 349-238-6666, non ho ancora capito se la Cina vede l'India come un'opportunità o come un competitor, anche dal punto di vista dei diritti dei lavoratori, probabilmente non lo sanno ancora nemmeno i cinesi, perché appunto, essendo due economie in espansione, probabilmente stanno riflettendo in questo momento più su come aggredire i mercati occidentali e continuare ad aggredirli piuttosto che come competere con l'India. Ci ritroviamo tra un attimo, subito dopo il meteo, per parlare di mercati. Le 17:40 minuti, bentornati gentili ascoltatori, è il momento della borsa. Una giornata a quanto sembra finalmente senza grossi patemi d'animo, si è partiti bene, si è chiuso bene, il FTSE MIB 1,5% di guadagno, il FTSE All-Share l'1,47%, hanno perso qualcosa sul finale, ma insomma non un granché. Paolo Paronetto, Radio Cuore, Il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, tutto bene oggi? Sì, oggi è stata una seduta positiva dall'inizio alla fine. In mattinata i mercati hanno approfittato della chiusura positiva di ieri di Wall Street e dell'andamento positivo registrato da Tokyo, e quindi anche gli estremi europei hanno messo a segno decisi rialzi nel corso della seduta. Inoltre la tendenza è proseguita, soprattutto hanno guidato i rialzi i titoli dell'energia, ma sono andati bene anche il settore auto e il settore bancario. E inoltre dagli Stati Uniti, pur essendo arrivati i dati macroeconomici in chiaroscuro, il mercato ha apprezzato in particolare le indicazioni positive avvenute dai big delle vendite al dettaglio statunitensi riguardo alle vendite nel mese di maggio, che sono stati positivi e quindi hanno rassicurato i mercati sulla tenuta dei consumi. Paolo, ci sono temi di giornata in particolare, al di là dei singoli titoli, singoli settori che si sono distinti? Per quanto riguarda i settori, possiamo parlare del settore energetico, che aveva perso molto terreno nelle ultime sedute, soprattutto in relazione ovviamente alla questione British Petroleum legata al disastro ecologico nel Golfo del Messico. BP aveva perso molto terreno in borsa nelle ultime sedute, trascinando al ribasso l'intero comparto. Oggi invece tutti i titoli, anche quello della stessa BP, hanno guadagnato terreno approfittando del rialzo del prezzo del petrolio. Il greggio è arrivato a salire oltre quota $74 al barile, poi ha limato i guadagni, ma anche adesso sta guadagnando circa l'1% a $73.6. Complice il calo a sorpresa delle riserve settimanali statunitense, che anch'essa ha contribuito a spingere al rialzo il barile. E a Piazza Affari Saipem ha così chiuso in rialzo di oltre il 4%, mentre Eni ha guadagnato il 2,57%. Sì, tra l'altro ne accennavamo al dato sulle scorte negli Stati Uniti, attendevamo appunto una reazione del greggio che, come abbiamo sentito, c'è stata. Eni si diceva un guadagno del 2,5%. Ieri vi abbiamo fornito in Focus Economia i dati sulle vendite di General Motors positivi di un più 16%. Bene hanno fatto anche le altre grandi case automobilistiche americane, compresa Chrysler, un più 33% in maggio, e Fiat naturalmente ne beneficia, Paolo. Esatto. Esattamente, proprio quello delle auto infatti è un altro tema di giornata. A livello europeo il sottoindice di settore ha guadagnato circa l'1,9%, proprio i dati negli Stati Uniti hanno innescato gli acquisti, dati che sono stati finalmente positivi, come ricordavi tu, soprattutto per quanto riguarda Fiat sono andati bene i dati di Chrysler, che ha fatto un più 33% su base annua, ma anche un più 10% rispetto ad aprile, quindi un ulteriore miglioramento rispetto ad aprile, e quindi soprattutto per la prima volta dal marzo 2009 le vendite mensili di Chrysler hanno superato le 100.000 unità negli Stati Uniti. Chrysler ha fatto inoltre meglio del mercato, ovviamente tutto questo ha portato gli investitori a premiare anche i titoli di Fiat, che ricordiamo si prepara a diventare controllante in futuro in base agli accordi di Chrysler, al momento è tra i principali azionisti, comunque al guida operativa della società, e quindi ha guadagnato il 2,19% chiudendo a 8,88 euro. Sì, anche Exor, per rimanere in tema Fiat, ha guadagnato l'1,68%. Ci chiede un ascoltatore di Finmeccanica e ci fa piacere rispondere perché sembra perché è stato un titolo nell'occhio del ciclone negli ultimi giorni per vicende anche giudiziarie, come si sa c'è un'indagine in corso su presunti fondi neri, sembra aver superato le tensioni, insomma è un più 2,71%. Sì, esattamente, oggi il titolo ha approfittato del rialzo generalizzato dei listini per recuperare parte del terreno perso nelle ultime sedute, terreno perso che, come ricordavi tu, è legato alle voci, insomma al coinvolgimento nell'indagine per presunti fondi neri, ovviamente eventualità che la società ha sempre smentito. Oggi il titolo ha guadagnato il 2,71% chiudendo a 8,9 euro. Due bancari, ci soffermiamo su due bancari, Intesa San Paolo e Banco Popolare, più 1,68% Intesa e più 1,39% il Banco Popolare, come mai? Sì, esattamente, sono i due stati, i due titoli migliori del comparto bancario. Per quanto riguarda Intesa, si sono tornati ad accendere i riflettori su Banca Fideuram, la controllata che dovrebbe approdare in borsa, anche se c'è ancora incertezza sui tempi, dato che si parla di un rinvio rispetto alla tempistica inizialmente prevista per l'estate. Oggi alcuni quotidiani sono tornati a parlare della questione, si parla anche dell'ipotesi dell'ingresso di un fondo nel capitale di Fideuram, proprio in concomitanza con la quotazione in borsa, ma ciò che il mercato ha apprezzato è soprattutto che tutte le ultime ricostruzioni continuano a essere sulla base di una valutazione di Fideuram attorno a 3 miliardi, valutazione che sarebbe in linea con l'esigenza di Intesa e superiore al valore di calcolo di Fideuram, e quindi che per la banca sarebbe positiva. Questo ha spinto la rialzo il titolo, che ha guadagnato, come dicevi tu, circa l'1,7%, mentre per quanto riguarda il Banco Popolare si avvicinano i tempi, come previsto, i tempi per la soluzione dell'opzione put esercitata dalla fondazione Cari Lucca per la vendita della propria quota nella Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa e Livorno, che è una controllata del gruppo Banco Popolare. Secondo le ultime indiscrezioni riportate anche oggi dal Sole 24 Ore, l'accordo si sarebbe trovato su un pagamento a metà cash e a metà in azioni della controllata Credito Bergamasco. Sul mercato alcuni investitori temevano in un pagamento tutto cash, che avrebbe impattato ovviamente di più sui coefficienti patrimoniali del banco, e quindi una soluzione metà e metà è stata accolta positivamente con questo rialzo. Grazie dunque anche oggi ai colleghi di Radio Corri Il Sole 24 Ore, in particolare oggi a Paolo Paronetto. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti. Giusto un quadro finale di chiusura di molti titoli, abbiamo detto, chiudono bene praticamente tutti: Atlantia, Mediolanum, Autogrill, Mediobanca, ST Microelectronics, anche su stime positive sul mercato dei microchip, Ansaldo, Bulgari, Azimut, tutti sopra il punto percentuale di guadagno, appena sotto Prismian e Generali. Ebbene Snam, Rete Gas e Parmalat più 0,80%, la Popolare di Milano e il Monte dei Paschi e CIR intorno allo 0,70%, così come Buzzi Unicem, l'Ottomatica mezzo punto percentuale di guadagno, così come Unipol, Unicredit più 0,43%, più 0,36%, Telecom, Terna, fondiaria appena sopra la parità, appena sotto Mediaset e UbiBanca, così come Italcementi in pregiro la peggiore, meno 0,72%, euro che del quale abbiamo perso la quotazione, eccola qua, 1,21,98, appena sotto gli 1,22 contro dollaro. La viabilità, e poi tra poco torniamo a parlare di mercato, ma in particolare di quello, se così possiamo dire, del debito sovrano. 17:50 e veniamo dunque a un tema che sta animando un pochino il dibattito sui quotidiani finanziari del pianeta, in realtà, ossia l'idea, come scrive Wall Street Journal oggi per esempio, che l'Italia stia diventando nuovamente un obiettivo della speculazione del mercato. E perché? Perché si registrano forti tensioni sia sui titoli di Stato sia sui credit default swaps. Ne abbiamo parlato moltissimo in questi mesi di crisi. Sono in sostanza, per dirla molto grossolanamente, delle assicurazioni sul rischio di default di un paese. Allora, abbiamo con noi Moria Longo, collega del Sole 24 Ore. Buonasera, Moria. Buonasera a tutti. Vogliamo capire innanzitutto che cosa è successo oggi sul fronte dei titoli di Stato, che cosa sta succedendo e cosa è successo negli ultimi giorni e anche le motivazioni. Sono più facile la prima parte che la seconda parte, perché di motivazione in realtà nessuno. Io ho sentito anche vari trader, quelli che stanno sul mercato, che comprano e vendono titoli di Stato, e di fatto nessuno sa veramente perché sta succedendo quello che sta succedendo. Cioè è da un bel po' di tempo ormai, da aprile sostanzialmente, che si stanno allargando i cosiddetti spread, cioè differenziali tra i rendimenti, per esempio i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, ma anche non solo italiani, spagnoli, francesi, anche i francesi, che non è, la Francia non è considerata uno dei paesi, diciamo, più rischiosi, il Portogallo, un po' tutti si stanno allargando. Allargare i differenziali cosa significa? Significa che per esempio un titolo di Stato italiano oggi, per essere comprato, quindi per essere appetibile per gli investitori, deve offrire l'1,61% in più rispetto a un titolo di Stato tedesco, che è considerato più affidabile. Ecco, quindi c'è un allargamento, quindi un aumento del timore, della paura, ripeto, non solo sull'Italia, ma è generalizzato a tutta l'Europa rispetto alla Germania, che è considerato il paese più affidabile. Però le motivazioni non si trovano. Io ho parlato con vari operatori e nessuno sa dire perché in questo periodo, perché di fatto, come anche oggi per esempio, la borsa è salita, ha ripreso fiato, è una giornata positiva, quindi dovrebbe essere una giornata di tranquillità, diciamo una giornata positiva di umore, però sui titoli di Stato ancora c'è allarme, c'è tensione, senza in realtà nessun motivo contingente. Oggi sul fronte della cronaca come sono andate le cose, Moria? Oggi si sono ancora allargati gli spread, appunto. Per esempio l'Italia è arrivato a circa 161-162 punti base, cioè l'1,62% in più della Germania, che è il massimo da oltre 10 anni. Sì. E nel frattempo ci sono appunto i cosiddetti credit default swaps, dei quali si diceva prima. Ieri quelli sul debito dell'Italia sono saliti di 17 punti base ad una nuova quota record, 250 punti, che se non erro è parallela più o meno a quella del Portogallo, quindi fa una certa impressione. Anche qua è possibile che non ci sia una spiegazione, Moria? Allora, io una spiegazione ce l'avrei. Allora, il motivo non è una spiegazione, diciamo, congiunturale o... Allora, è ovvio che l'Italia ha questo grosso problema del debito pubblico gigantesco, però rispetto per esempio ad altri paesi ha un bassissimo debito privato e ha banche più solide, non sono mai state salvate per esempio, quindi ha dei punti di forza l'Italia che la contraddistinguono dai paesi più rischiosi, a partire ovviamente dalla Grecia, ma anche la stessa Spagna e il Portogallo. Però il motivo per cui la speculazione sta andando a pescare tanti paesi, compresa l'Italia, secondo me va ricercato nel fatto che il mercato dei titoli di Stato è un mercato per la maggior parte degli scambi totalmente opaco. Non è come il mercato azionario dove ci sono delle borse regolamentate. Il mercato obbligazionario è in piccola parte fatto da borse regolamentate, in grossa parte da mercato si chiama over the counter, fuori borsa, fatto da banche, che fanno il bello e il cattivo tempo. Allora, questo può essere una delle motivazioni per cui è difficile capire il perché di certi movimenti, perché più di metà del mercato non si vede, non si sa chi compra, chi vende, come sono gli spread, per esempio, tra denaro e lettera, cioè tra acquisti e vendite. Per cui questo può creare tutte le più grandi teorie che si possono fare, ma in realtà sono solo teorie. Uno può pensare agli speculatori, alle banche, agli hedge fund, a mille motivazioni, ma sono solo teorie, perché di fatto nessuno ha la capacità di capire esattamente cosa sta succedendo sul mercato, e questo secondo me è il vero problema dei titoli di Stato. E quindi la sostanza è che non è detto che poi sia i rendimenti dei BTP, sia i CDS, i credit default swaps, siano un indicatore del reale rischio di fallimento di un paese. No, possono non essere un indicatore sul reale rischio di fallimento di un paese, ma possono diventarlo. Nel senso che se tu un paese, ma può essere anche una società chiunque, un debitore, gli tieni alti i tassi di interesse artificiosamente, adesso dico io artificiosamente perché non si capisce realmente le motivazioni congiunturali di spread che sono più alti rispetto a quelli dopo il crack Lehman, ai momenti peggiori anche prima del salvataggio recente della Grecia. Ecco, se si tengono alti i rendimenti per tanto tempo, a un certo punto qualunque debitore inizia ad andare in affanno. Quindi il problema è questo, che da motivazioni magari non così importanti si rischi di verificare un evento vero, nel lungo termine ovviamente, però il rischio è se i mercati continuano a tirare, c'è. Allora Moria, io ti chiedo di restare ancora un attimo con noi, perché c'è un altro dato interessante che vi abbiamo dato anche in apertura di trasmissione e che riguarda i depositi delle banche presso la BCE, che vorrei commentare con te, perché è un dato interessante, perché in sostanza i depositi delle banche presso la Banca Centrale Europea hanno raggiunto un nuovo record. In sostanza cosa vuol dire? Che le banche preferiscono preservare la liquidità presso la BCE piuttosto che sostanzialmente scambiarsi. Lei ha raggiunto livelli sostanzialmente pari a quelli che ci furono dopo il crack Lehman Brothers. Vorrei capire come interpretarlo. Prima il giornale radio, ci ritroviamo subito dopo. Le 18:09 minuti e 42 secondi. Al 349-238-6666 c'è qualche messaggio interessante al quale facciamo rispondere al nostro Moria Longo. Innanzitutto un ascoltatore ci scrive sulle motivazioni per il quale si registrano queste tensioni sui credit default swaps e sui titoli di Stato italiani, e dice probabilmente gli investitori sono convinti che questa manovra non arriverà fino in fondo così com'è, e quindi ci scrive probabilmente che insomma la manovra doveva essere modificata a causa di tensioni sociali. Moria. Ma questo è fuori di dubbio. Allora è ovvio che ci sono una serie di, io prima dicevo non ci sono motivazioni, in realtà delle motivazioni, dei pretesti ci sono. Questa è sicuramente la motivazione. C'è anche molta sfiducia sul piano di salvataggio dei paesi dell'Unione Europea di qualche tempo fa, o sugli interventi della BCE che sembra che non stia più comprando titoli di Stato. Però il discorso che si fa sulla manovra giustifica il rialzo dello spread del BTP, ma non quello per esempio del titolo di Stato francese, che oggi sono saliti di 6 punti base. Quindi c'è un allargamento degli spread, quindi un allarme un po' ovunque, non solo sull'Italia. Ci sono tante motivazioni, bisogna capire se sono pretesti o motivazioni, o comunque giustificazioni a un qualcosa che in realtà può essere più ampio e meno decifrabile, quello volevo dire. Altra domanda rapidamente, ci scrive un ascoltatore, Paolo da Torino, dice: non è vero che il mercato dei titoli di Stato non è trasparente, quello degli euro bonds è over the counter e quindi con quotazioni non trasparenti. Il mercato dei titoli di Stato, e tra questi quello italiano, è un mercato regolamentato, liquido e trasparente. Moria. Purtroppo non è così. È vero che in Italia, e non solo in Italia, in quasi tutti i paesi europei c'è un mercato regolamentato, si chiama MTS e oggi attualmente fa parte del gruppo Borsa Italiana. Purtroppo però MTS è un mercato regolamentato e trasparente, come una borsa. Il problema è che su MTS non ci sono tutti gli scambi sui titoli di Stato. Nessuno sa quanti sono gli scambi all'interno, si sanno, non si sa quanti sono gli scambi fuori. C'è solo una stima che recentemente è uscita da Celent, che è una società che appunto ha fatto una stima sul mercato over the counter dei titoli di Stato europei. Viene fuori che probabilmente almeno il 55% dei volumi giornalieri viene fatto fuori da borse regolamentate. Quindi il problema dell'over the counter c'è anche sui titoli di Stato, non solo sulle obbligazioni societarie o bancarie. Infine, l'altro tema, quello che annunciavamo subito prima del giornale radio, ossia quest'altro segnale che francamente non ci sembra per nulla positivo, ossia il fatto che c'è stato questo nuovo record per i depositi delle banche presso la Banca Centrale Europea. Di fatto le banche sono più diffidenti, preferiscono lasciare i quattrini alla Banca Centrale Europea piuttosto che scambiarseli tra loro. Che cosa vuol dire? Anche qui è difficile da decifrare. Questo dato significa che c'è tensione, conferma la tensione, come anche il fatto che il tasso Euribor sta salendo, i tassi interbancari stanno salendo. Il fatto che le banche preferiscano mettere i soldi, depositare i soldi alla BCE che paga un tasso dello 0,25% piuttosto che prestare ad altre banche, quindi guadagnando un tasso di interesse maggiore, solitamente significa che non si fidano l'una delle altre. Questa cosa era successa soltanto dopo il crack di Lehman Brothers, quando le banche non si prestavano più i soldi l'una con l'altra e quindi li portavano tutti alla BCE. Oggi però anche qui non credo che siamo sulla stessa allo stesso livello di agitazione, di sfiducia tra le banche che c'era allora. O magari loro sanno qualcosa che non sappiamo noi. Quello appunto non lo so, quello non è possibile. Per cui però siamo a un livello di depositi presso la BCE superiore rispetto a quello che c'era dopo Lehman Brothers. Allora la spiegazione che per esempio ho trovato oggi parlando con alcuni operatori è che siccome c'è incertezza sul mercato di titoli di Stato, non si sa bene dove investire, c'è troppa volatilità, troppa confusione, allora i soldi mettiamoli alla BCE e così almeno. Beh, insomma, è come quasi un metterli sotto il materasso, esatto, aspettando di vedere cosa succede. Come noi, non so cosa farne, li metto nel conto sul conto corrente. Esattamente, più o meno stanno facendo la stessa cosa le banche, il che è un pochettino più preoccupante. Però. Sì, sì, che non è forse una spiegazione, diciamo così, no? Insomma, sono dei professionisti dell'investimento. Appunto, per cui se fanno questa cosa qualche motivazione ce l'avranno, evidentemente le tensioni ci sono. Bene, grazie al nostro Moria Longo del Sole 24 Ore per averci aiutato un po' a capire che cosa sta succedendo su questi mercati. Buonasera Moria. Buonasera a tutti. E passiamo al prossimo argomento, che è il Festival dell'Economia di Trento. Si apre la quinta edizione, il titolo di quest'anno è Informazioni, Scelte e Sviluppo. Da giovedì fino a domenica 6, cioè da oggi fino a domenica 6 giugno, ad animare il festival grandi nomi dell'economia, tra cui il premio Nobel Vernon Smith. Vi ricordo tra l'altro che noi naturalmente seguiremo il Festival dell'Economia, ci saranno degli spazi all'interno delle nostre trasmissioni, come naturale, ci saranno dei servizi nei giornali radio e poi uno speciale in onda domenica alle 18:30. Si diceva Nouriel Roubini, per esempio, appunto Vernon Smith che ieri è stato ospite di un forum al Sole 24 Ore. Una chiacchierata di un'ora e mezza con la redazione, coordinata dal direttore del Sole 24 Ore Gianni Riotta, nella quale l'economista ha parlato dei temi più diversi, dalla crisi al tema della regolamentazione finanziaria. Alcune delle risposte del premio Nobel. Vi ricordo tra l'altro che potete trovare il video integrale di questa chiacchierata, di questo forum, sul sito del Sole 24 Ore. Sentiamo Vernon Smith sulla domanda chiave per un economista: poteva essere prevista questa crisi oppure no? I don't think it could have been anticipated. It's in the nature of bubbles. Questa crisi non era prevedibile, fa parte della natura delle bolle, anche se imprevedibili. Le persone si lasciano risucchiare in una sorta di aspettativa continua, che si autoalimenta su prezzi sempre crescenti. È stato sempre così nei secoli passati. La crisi non è sostenibile. Arriverà la sua fine, anche se non conosciamo i tempi. Abbiamo capito bene le regole del mercato azionario. Le bolle danneggiano gli investitori e di conseguenza le banche e le altre parti in causa. Non si possono prevedere le bolle, ma per tutelare chi partecipa al mercato si devono limitare i danni. E ancora, Vernon Smith è stato chiesto quale sarà la tenuta delle economie dei paesi europei. Sentiamo cosa ha risposto. Per un po' di tempo ho pensato che il calo del dollaro non poteva durare e che ci sarebbe stata un'inversione nel rapporto dollaro-euro. Non perché l'economia americana stesse andando bene, ma perché pensavo che gli europei avessero imparato come non fare le cose nel modo sbagliato. E allora continuiamo a sentire qualche brano delle risposte di Vernon Smith. Il ruolo della finanza: l'amministrazione Obama pare limitare il peso del sistema finanziario nell'economia. La sua opinione. I think we're in danger of overkill. C'è il pericolo di reagire in modo eccessivo. L'intervento nel settore bancario è un esempio chiaro di questa situazione. È pericoloso se si presta denaro a chiunque, se non ci sono regole che possiamo ricondurre ai diritti di proprietà. Non rubare è una buona regola, e le regole di proprietà garantiscono prosperità e ricchezza. Infine, le banche. Al premio Nobel è stato chiesto se pensa che siano troppo grandi e connesse, interconnesse, per poter fallire. Il presidente della Federal Reserve, Bernanke, ha sufficiente potere per controllare i rischi di sistema o vanno distinte le banche commerciali e quelle di investimento? Il ragionamento sulle banche troppo grandi per fallire è potenzialmente disastroso. Significa che non si è imparato dal passato. Il sistema economico americano è stato colpito da molti fallimenti, ma è inevitabile. Molte start-up falliscono entro 5-7 anni. Sono abbastanza scettico sulla possibilità che Bernanke possa definire un processo di controllo. È comunque un compromesso tra economie di scala legate al fatto di essere di grosse dimensioni e un regime disciplinare che controlli i fallimenti. E restiamo a Trento per il Festival dell'Economia, ancora sulle cause scatenanti della crisi, nelle parole di una delle anime del Festival dell'Economia di Trento, Innocenzo Cipolletta, presidente del gruppo Ferrovie dello Stato, preside dell'Università di Trento, intervistato da Massimo Di Scienza. Una parte della crisi è sicuramente dovuta al fatto che sono stati diffusi sui mercati finanziari strumenti che erano poco conosciuti, non solo da chi li acquistava ma addirittura da chi li vendeva, e al punto che tutto il sistema finanziario si è trovato senza sapere bene che tipo di rischio aveva al suo interno. Questo ha bloccato completamente il mercato finanziario e ha determinato una crisi di proporzioni attuali. Quindi sicuramente il sistema dell'informazione è responsabile in parte dell'ampiezza di questa crisi. Io non direi della crisi in se stesso, perché la crisi nasce dalle politiche errate fatte negli Stati Uniti d'America nel corso degli ultimi anni. E ora è il momento della viabilità, ci ritroviamo subito dopo per parlare di pensioni con il nuovo richiamo dell'Unione Europea sulle donne nel pubblico impiego. E veniamo appunto al tema delle pensioni. Che cosa è successo? Che oggi la Commissione Europea, come si diceva, ha dato un ultimatum, in realtà un nuovo ultimatum, se all'Italia se non equiparerà immediatamente l'età pensionabile tra uomini e donne nel settore pubblico sarà nuovamente deferita alla Corte di Giustizia Europea. Che cosa chiede l'Europa? Chiede di abrogare il periodo di transizione di 8 anni nell'arco del quale appunto sarà equiparata l'età pensionabile tra uomini e donne nel pubblico impiego. Di questo parliamo col professor Antonio Golini, docente di demografia all'Università della Sapienza, editorialista del Messaggero. Professor Golini, buonasera. Buonasera a lei e a tutti. Allora, ci dica innanzitutto qual è la sua opinione, qual è la sua valutazione. La mia opinione è che questa età deve essere equiparata. Ci sono ragioni di equilibrio attuariale, ci sono ragioni di equità sociale che spingono decisamente per l'equiparazione. Naturalmente il problema presenta anche aspetti che vanno valutati con maggior approfondimento, per esempio il fatto che le donne si prendono cura dei figli da allevare molto più degli uomini e che si prendono cura dei vecchi da assistere molto più degli uomini, e quindi questi sono elementi di cui tener conto, però in linea generale io sono favorevole. La verità è che una donna di 60 anni si può aspettare di vivere ulteriori 26 anni.